Radio 24 ed Eni presentano Passione Africana, reportage a cura di Gigi Donelli e Roberto Antonini. Tra i sei paesi africani che parteciperanno alla fase finale dei mondiali in Sudafrica, la Costa d'Avorio è quello che vanta il record più curioso e molto probabilmente anche il maggior numero di rimpianti. Il record è quello della finale di Coppa Africana del 92, vinta dagli Elefanti di Abidjan solamente al 21esimo rigore contro i vicini del Ghana che ancora tutti ricordano. I rimpianti, numerosi, sono quelli di un paese che dopo essere partito con il piede giusto negli anni della decolonizzazione è poi caduto in una spirale di disordine politico e di crisi economica e morale che ha generato separazione, guerra e poi dal 2005 una faticosa tregua che ancora oggi non appare convincente né particolarmente solida. Gli effetti si vedono anche al Boigny, che è lo stadio più importante del paese, la casa degli ASEC di Abidjan, ma anche della nazionale. Sapete che c'è la passione, c'è come in Italia le gens aiment le football, c'è ça. Una passione, davvero una grande passione, qui in Costa d'Avorio proprio come in Italia, mi spiega Monsieur Fofana, che è il coordinatore amministrativo della ASEC di Abidjan, la squadra di club più importante del paese. Il calcio dunque per distrarsi, anche se non è facile far finta di niente di fronte a uno stadio che a pochi minuti dal via resta semivuoto. Fofana spiega con orgoglio che i suoi ragazzi in maglia giallonera sono da sempre il nucleo della squadra nazionale, Drogba a parte, e che il palmarès è carico di gloria. D'altra parte, ammette, con i tempi che corrono, la gente ha altri problemi, altre priorità. E dunque, prima di spendere soldi per essere allo stadio, bisogna mettere insieme il pranzo con la cena. Credo che sia sempre il problema, faut le comprendre, c'est difficile. Il calcio, come la musica, la crisi in quest'Africa tropicale è sempre in primo piano. Il mio paese se la passa male, canta Tikenya Fakoly in una hit a ritmo reggae che sembra un inno addolorato e impietoso alla Costa d'Avorio del nuovo millennio. Una volta, scrive e canta, non esistevano i nordisti e i sudisti, non si parlava mai di cristiani e di musulmani, né si coltivava l'idea della secessione per mettere fine agli scontri tra le province. Ora però tutto è diviso, l'esercito, gli studenti, la società è divisa e dunque le pays va male. Les étudiants sont divisés, la société est divisée, mes mamans au marché sont divisées. Nonostante il ritmo rilassato, la sua è un'accusa esplicita alla classe politica ivoriana che per 10 anni ha coltivato le divisioni tra le etnie, alimentando la deriva del paese. Tiken, erede in patria della star dell'afro-reggae Alpha Blondie, canta contro il tribalismo e la xenofobia che avvelenano la società e la espongono a tutte quelle amicizie molto interessate e pericolose offerte dall'Europa e dagli Stati Uniti. Tiken canta in francese e nella lingua della sua gente del nord, il Diula, che è poi una lingua franca dei mercanti di tutta l'Africa occidentale. I suoi brani sono apprezzati, molto apprezzati, vende bene, la gente lo canta, ma dà fastidio fino a quando le minacce si fanno azione e lo convincono a trasferirsi a Bamako, in Mali, patria d'origine della sua gente. La sua è una piccola storia d'artista, ma è esemplare di un paese che per anni è stato un vero e proprio crogiuolo del panafricanismo applicato e che ora sembra addirittura non poterlo più tollerare. Lo stadio ha il nome di Félix Houphouët-Boigny, il padre del miracolo economico ivoriano, il grande vecchio classe 905 al potere ininterrottamente dall'indipendenza del 60 alla sua morte nel 93. Lo stadio è al centro di Abidjan, incastrato letteralmente tra il boulevard del General de Gaulle e la laguna di Ebrì, che da un lato si apre sull'Atlantico, dall'altra si insinua in quel che resta della foresta tropicale, separando con le sue anse i principali quartieri cittadini. Plateau delle banche e degli affari, Cocody con i suoi 1000 locali notturni, le ambasciate e le ville dei ricchi. Poi, oltre il ponte, i quartieri popolari di Trècheville e Opogon, quelli che qui chiamano i quartieri africani. Inizia la partita, è in gioco un posto per i quarti della Champions africana, ma lo stadio non si riempie. Dopo una ventina di minuti aprono i cancelli, anche per chi non ha il biglietto, ma la situazione cambia di poco. La passione degli ivoriani per il loro calcio, vista da qui, sembra davvero essersi spenta. La crisi economica, insomma, solo una parte della storia. L'altra me la racconterà qualche ora più tardi Benoît Hu, che è il manager della ZEC che segue da anni il vivaio. Il y a un fenomeno assez particulier qui existe, qui a eu lieu en Côte d'Ivoire et je pense dans une grande partie de l'Afrique noire depuis 10 ans. Effettivamente c'è ormai un fenomeno che riguarda l'Africa e che discende direttamente dalla sentenza Bosman e poi dai successivi accordi sul trasferimento dei professionisti del calcio. Si tratta di una trasformazione epocale, iniziata a metà degli anni 90, su cui poi si sono inserite alcune clausole specifiche per i paesi dell'Africa occidentale, come quella introdotta nel 2002 dagli accordi firmati a Cotonou, in Benin. Sono state tutte novità che hanno favorito la libera circolazione degli atleti africani. Norme che erano state chieste a gran voce dai grossi club europei e che le società calcistiche africane hanno sostenuto perché finalmente regolavano, sull'intera carriera del giocatore che si trasferisce nei campionati europei, i vantaggi economici anche per il club di provenienza. Insomma, i fatti raccontano che fino al 2000 erano pochissimi i giocatori ivoriani che giocavano all'estero, ma veramente pochi. Poi, a partire dal 2001, noi dell'ASEC abbiamo cominciato a far partire una prima ondata di ragazzi, prima in Belgio, paese cui siamo legati da accordi diretti tra club, e poi anche verso il Regno Unito e la Francia. Sono partiti Zokora, Dindan, Kolo Touré e così via. Morale, fino al 2000 i migliori giocatori di questo paese giocavano tutti in patria ed erano i protagonisti di sfide caldissime. ASEC Mimosa Abidjan contro l'Africa di Trècheville, che è solamente un altro quartiere di questa città, era lo scontro clou e i 45.000 posti dello stadio Bouagny andavano a ruba. La gente si identificava con i campioni e li seguiva nelle diverse squadre durante il campionato, per poi ritrovarli con la maglia degli elefanti, come chiamiamo qui la nazionale. Ma oggi cosa succede? Succede che i migliori giocatori del paese, Drogba, gli Essien e i fratelli Touré, solo per citare i più famosi, sono partiti e sono tutti impegnati nei maggiori campionati europei. Quelli che sono bravi, ma non così tanto, giocano nei campionati dell'Europa dell'Est, in quelli dell'Africa del Nord o degli Emirati Arabi. E infine ci sono quelli che restano e che vanno in campo qui, ad Abidjan, piuttosto che a Bouaké o a Man, e nelle altre città del paese. Se sono qui, ci sono due ragioni. O sono giovanissimi, così giovani da non poter andare all'estero, oppure non ce l'hanno fatta. Insomma, la passione dei nostri tifosi non riesce più ad alimentarsi di sogni che restano in patria. E tutto questo riduce progressivamente, ma inesorabilmente, la passione dei tifosi. Oggi gli ivoriani tifano Chelsea o Barcellona, seguono i canali internazionali e sognano all'estero. Su tutto questo, come se non bastasse, è arrivata la crisi politica e quella economica. Ecco, insomma, che andare allo stadio, anche se il biglietto non è caro, finisce per essere una spesa che non sono più in molti a voler sostenere. Che le gens riflettissent avant de la faire. Alle spalle dello stadio Bouagny c'è la grande cattedrale di San Paolo, disegnata e costruita dagli italiani negli anni Ottanta, un simbolo, come il quartiere di Plateau che la circonda con i suoi grattacieli, di quella modernità in chiave africana che, nonostante anni di declino, rende ancora oggi Abidjan così diversa dalle altre città della regione. Dall'altro lato, perfettamente visibile anche dalla tribuna dello stadio, lungo la Avenue Giscard d'Estaing, c'è invece l'imponente Ivoire, albergo di lusso costruito intorno alla sua torre di 24 piani, diventato luogo simbolo del nazionalismo ivoriano. Martedì 9 novembre 2004. La tensione tra il presidente Gbagbo e quello francese Chirac è al culmine. I soldati di Parigi usano l'Hôtel Ivoire come base di coordinamento per evacuare 100.000 espatriati. Si trovano a fronteggiare una folla che chiede la loro immediata partenza. I nervi sono tesi, molto tesi. Due giorni prima, nel mezzo della guerra civile tra governo e ribelli del nord, l'aviazione ivoriana ha ucciso 9 francesi in un bombardamento nei pressi di Bouaké. La risposta di Parigi ha cancellato l'aviazione ivoriana. Sono le 16.30 quando i francesi aprono il fuoco sulla folla. La sequenza degli eventi resta ancora oggi da districare in un groviglio di sospetti e accuse reciproche, mai del tutto chiarite. Di certo, c'è che quello che è stato ribattezzato il martedì nero dell'esercito francese in Africa lascia al suolo 7 morti e molti feriti. Viene fatta a pezzi anche la storia di una relazione privilegiata che faceva della Costa d'Avorio la più stretta alleata africana dell'Eliseo.